senti ancora i rumori della notte, forse è l'ora di sentirsi ancora un poco strani. Scendi adesso lungo il mio respiro, un momento ora venuto da lontano. Guardo il sole scendere nel mare, questo giorno adesso se ne va. Sento ancora il calore di una mano, torna un tempo ed una verità. Noi qui per credere, ora non è fantasia. No, non puoi perdere, ogni giorno che se ne va. Batte forte, mi prenderà la gola, questa è l'ora di sentimenti strani. Sale adesso più forte il mio respiro, quei momenti sentirli più vicino. Un tramonto passato lì dal mare, perché torna, io questo non lo so. Sul mio viso scivola una mano, torna un tempo ed una verità. Per credere a momenti ancora di poesia, poi senza perdere ogni giorno che se ne va. Noi qui per credere, ora non è fantasia, poi senza perdere ogni giorno che se ne va.